baci per perfido fannoli e dagli insulti della plebe più vil spettacolo si esponga. Il tipo sotto la scura intenna paghi di falli suoi giusta la pena. E tu, Cesare invitto, verso d'un innocente volgi meno sdegnoso il cuore il bardo, e tradì alto e fuori creder macchie del sol io non dovevo. Signor, se vile intercessor non sono al fratel vitaliano Andronico al Cerano, imploro dal tuo cor pace e perdono. Tu del sangue sei chiaro, tra le prese accesi all'alma invitta, tra l'oceano e la gran stirpe sia destino che bravi al sempistrillo e ogni trascorso oblio. Bacio l'augusta mano di fede in fede per te voti di gloria il cielo in Dio.